versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.31 primi e 5 secondi, martedì 20 dicembre 2016 ovviamente, quindi diretta da una piovosa, uggiosa Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, in diretta in podcast Oscar Giannino. Credo che molti di voi sappiano, non parliamo di questo ma è solo per dare un flash della situazione a Berlino dopo la strage di ieri sera del TIR. Sapete che stamattina ci eravamo svegliati con la notizia che era stato arrestato, grazie anche alla collaborazione di un eroico cittadino che l'aveva seguito, l'autore del fatto, mentre con ogni probabilità l'autista polacco era il cadavere trovato a bordo della cabina del TIR. Invece pare proprio che non sia così e che quindi l'autore del, chiamiamolo, dirottamento e poi della strage si fosse sottratto alle forze dell'ordine. È in corso comunque un test del DNA sul profugo fermato e l'Italia purtroppo trema perché non sappiamo ancora che fine abbia fatto una 31enne di Sulmona che è dispersa perché sono stati trovati il suo telefonino e i suoi documenti sul sito, cioè al mercatino dove è avvenuta la strage, e però non, la sua famiglia non ha notizie da ieri e quindi purtroppo si teme per lei. Al di là di questo invece, di che cosa ci occupiamo oggi nella trasmissione? Ci occupiamo di alcuni dati che riguardano la pubblica amministrazione e che mi hanno lasciato da una parte un po' sorpreso, dire la verità, negativamente, e che dall'altra sono molto utili. Perché? Ve ne cito solo uno all'inizio e parte di una ricerca che viene fatta dal Forum della Pubblica Amministrazione. Il Forum della Pubblica Amministrazione ogni anno è la grande occasione in cui ci si confronta su un po' tutti i temi della pubblica amministrazione con tutti gli attori, quindi amministratori pubblici, sindacati, rappresentanti dei diversi enti territoriali e centrali e così via. E nell'ambito di questa ricerca che affronta un primo bilancio della riforma Madia delle pubbliche amministrazioni, offre moltissimi dati su cui riflettere, e io ve ne citerò diversi mentre siamo in attesa di collegarci con il presidente del Forum della Pubblica Amministrazione Carlo Mochi Sismondi. Ma volevo cominciare da uno che mi ha fatto un po' sobbalzare, perché sto parlando della retribuzione comparata pubblico-privato nel nostro paese. Voi sapete che, ne abbiamo più volte parlato, con la legge di bilancio, vedremo col governo Gentiloni, ma insomma deve partire la ricontrattazione del pubblico impiego che è sospesa ai tempi del governo Berlusconi del 2011. Più volte vi ho detto che questo stop, la Corte Costituzionale ha dichiarato che bisogna procedere a nuovi contratti senza per questo recuperare il pregresso, e ai sindacati che più volte abbiamo ospitato qui, che dicevano ma come non recuperare il pregresso, più volte mi è capitato di dire che però se uno andava a vedere l'evoluzione nel tempo degli incrementi salariali del pubblico e del privato, trovava che da decenni e nei successivi rinnovi contrattuali i lavoratori pubblici erano tra virgolette trattati meglio di quello privato, quindi a parità di qualifiche le retribuzioni erano più elevate. E abbiamo detto più volte che lo stop dei 6 anni che abbiamo alle spalle, vedremo poi come parte la contrattazione, sapete che il governo Renzi aveva stabilito semplicemente un'intesa precontrattuale su 85 euro di aumenti medi retributivi nel pubblico impiego nel triennio successivo, e questo è l'atto di indirizzo sulla base del quale poi l'ARAN apre le trattative, e bisogna vedere col governo Gentiloni che sviluppo prende la trattativa diretta ai tavoli dei 4 comparti del pubblico impiego. Ma io ho fatto un salto leggendo in questa report sulla pubblica amministrazione una tabella che dà i numeri sulla retribuzione media annua lorda nel settore pubblico e nel settore privato in Italia, Francia e Gran Bretagna in euro. Sono fonti ufficiali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal conto annuale sulle amministrazioni pubbliche. E parto semplicemente da questo. Io non voglio parlare solo di questo, però tuttavia lasciate che vi citi questo dato e lascio a voi la riflessione. La retribuzione media annua nel settore pubblico Italia è lordi, 34.348 euro lordi annui nel settore pubblico, la retribuzione media. La media annua lorda nel settore privato è di 23.406. Allora, capite che c'è un divario 34.348 pubblico, 23.406. Ora, io mi limito a dire questo, poiché è notorio, per esempio, che quasi un terzo del totale degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici nel nostro paese fanno capo al MIUR, cioè stiamo parlando del comparto della scuola e pubblica istruzione, e le loro retribuzioni non sono elevate. In questo dato medio dei 34.348 è tirato verso l'alto da alcuni comparti della pubblica amministrazione che hanno retribuzioni sensibilmente più elevate, sulle quali si è più volte espresso e prodigato con numeri e tabelle il professor Roberto Perotti, l'ex commissario poi dimissionario alla Spending Review. La dirigenza ha retribuzioni molto più elevate, questo fa salire la media. Il comparto della sanità ha retribuzioni più elevate, questo fa salire la media. Le agenzie, quelle tributarie e non solo, e le autorità di settore hanno retribuzioni più elevate, questo fa salire la media. Pur tuttavia, stiamo parlando di una retribuzione medio annua nel settore pubblico di 34.348 euro a fronte di una nel settore privato di 23.406. Cosa capita negli altri due paesi di questa tabella? In Francia la retribuzione media annua nel settore pubblico è più elevata che in Italia. Stiamo parlando di 35.616 euro, ma quella privata non è di 23.000 euro, ma è di 33.574 euro. Quindi c'è un vantaggio anche in Francia, ma è molto più lieve che in Italia, perché in Italia c'è un terzo quasi in più a vantaggio del pubblico rispetto al privato. Se andiamo poi al Regno Unito, si ribalta il vantaggio, nel senso che l'attribuzione media annua al settore pubblico è pari a 34.093 euro, ma quella nel settore privato è pari a 38.047 euro. Allora, prendete questo dato come volete, e sicuramente tenete conto di quello che vi ho detto, cioè che sulla media pesano retribuzioni elevate di alcuni settori del pubblico impiego rispetto alla grande massa e alla base della piramide. Purtuttavia, anche negli altri paesi esistono delle diversità, ma evidentemente, come ha sempre dimostrato il professor Perotti, secondo multipli molto meno elevati che in Italia. Esempio classico, il personale diplomatico e del Ministero degli Affari Esteri, che è attualmente, ha continuato a sostenere il professor Perotti anche nel libro Status Quo, di cui abbiamo parlato recentemente con lui, che è il più pagato al mondo nel nostro paese. Pur facendo tardi tutto questo, i dipendenti privati hanno di che lamentare, per così dire, rispetto a questa media. Nel Regno Unito i dipendenti privati guadagnano di più, né in Francia i dipendenti privati guadagnano poco meno dei dipendenti pubblici, ma qua c'è un divario fortissimo. Poi proseguo e poi passo all'ospite per commentare tanti altri dati. C'è invece un effetto clamoroso, purtroppo, questo è noto, ma meglio avere le cifre sotto mano, degli effetti del blocco del turnover di questi anni. Sapete, il blocco del turnover significa non sostituire integralmente, ma anzi solo in piccola percentuale e con percentuali variabili a seconda delle diverse branche della pubblica amministrazione, coloro che vanno in pensione. E l'effetto si vede, perché sul totale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per classi di età, nel nostro paese il 51,4% ha più di 50 anni. Ecco, stiamo parlando di in Regno Unito e in Francia stiamo parlando del 30% o del 31,7%, da noi 51,4%, cioè c'è un dato anagrafico che ha purtroppo del clamoroso e che è effetto di questa seconda misura, grazie alla quale, insieme allo stop per i nuovi contrattuali, la retribuzione. Il totale delle retribuzioni sul totale della spesa pubblica corrente in Italia si è fermato non solo in termini nominali ma anche reali, cioè è retrocesso sia pur di poco, ma sul totale della spesa pubblica, mentre tutte le altre voci della spesa corrente invece continuavano a salire meno rapidamente, molto meno rapidamente di prima, ma questa è stata la vera voce su cui invece c'è stata una diminuzione nominale e reale, quindi netta, vera. Grazie a queste due misure qua. Allora, ci ha raggiunto il presidente di Forum PA, grazie intanto per quello che fate, per il vostro appuntamento annuale e per tutti i materiali che ci date, che sono molto utili. Noi delle informazioni anche ai cittadini per capire dove sta andando la pubblica amministrazione. Grazie al presidente che è Carlo Monchi Sismondi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori, grazie a voi di averne attenzione, una cosa su cui non c'è sufficientemente attenzione nella pubblica opinione, forse, quindi se più ne fate conoscenza è meglio per tutti. Io devo dire che apprezzo molto, io ho parlato di questi due dati, l'età anagrafica, le corti anagrafiche nella PA e la retribuzione. La retribuzione ha ancora del clamoroso perché io credevo che gli effetti dello stop contrattuale avesse diminuito la forbice a vantaggio del pubblico. Ma detto questo, nella vostra ricerca ci sono molte cose interessantissime, nel senso che c'è un bilancio di tutti i diversi decreti legislativi in attuazione della delega della riforma della PA, della riforma Madia, e anche tenendo conto delle recenti pronunzie, che ci sono state da parte della Corte Costituzionale sulla mancata ricerca dell'intesa con le regioni. E poi ci sono, io vorrei partire da un'altra batteria significativa di dati sugli avanzamenti, per così dire, della riorganizzazione dell'offerta di servizi con tecnologia digitale della pubblica amministrazione, che ho trovato, devo dire, un po' preoccupanti, anche qui ringraziandovi però per il monitoraggio che fate. Sto parlando della SPID, quindi dell'identità digitale. Digitale. Tanto per cominciare, riepilogo il dato ai nostri ascoltatori, e lo faremo anche per l'anagrafe nazionale della popolazione residente, quindi il domicilio digitale. Ebbene, voi dite che sulla SPID, sull'identità digitale, siamo ancora molto lontani dai traguardi, perché leggo dalla vostra ricerca: gli utenti attuali rappresentano solo un 4,4% di quelli che ci si è dati come obiettivo tra 12 mesi, cioè sono a oggi 436.000 su 10 milioni di italiane, con amministrazioni attive che sono meno di 4.000. Ma poche hanno in realtà attivato più di un servizio e nessuna ha ancora fatto una migrazione completa dei propri servizi su SPID, quindi con l'integrazione dei sistemi di autentificazione preesistenti, che evidentemente sono resilienti, cioè creano problemi tecnologici, organizzativi, eccetera, eccetera. Primo dato preoccupante. Il secondo poi è questo. Il primo lo conoscevo, il secondo non lo conoscevo e anche qua. Insomma, mi trattengo, però mi limito a citare il dato e poi le chiedo di interpretarcelo. Stiamo parlando in questo caso, cari ascoltatori, dell'esperimento che era stato avviato in un numero molto ristretto di comuni, su 26 comuni italiani, del passaggio dell'anagrafe a un'anagrafe nazionale digitale. Del domicilio e della popolazione residente. Sapete che abbiamo alle spalle quasi 20 anni dei tentativi di una carta d'identità digitale che poi, tra mancata cooperazione delle diverse amministrazioni, A, B, una certa ritrosia delle anagrafi locali a privarsi dei dati, il Viminale, insomma, abbiamo dietro una lunga storia di fallimenti. Allora, era stato avviato questo esperimento e in questo esperimento di 26 comuni, solo un comune su 26 che hanno avviato la sperimentazione è riuscito dopo un anno a sbarcare sulla piattaforma dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Uno su 26. Quindi, prima di arrivare a più di 8.000 anagrafi comunali digitali sulla piattaforma, mi pare di capire che la prospettiva non c'è. Ecco, chiedo a lei, Carlo Mocchi Sismondi, questi due dati a chi li ascolta fanno pensare tutto il male possibile. Lei che ci dice? Allora, sono due dati abbastanza, cercherò di commentarli separatamente perché non derivano dallo stesso problema. Allora, il primo dato SPID, intanto le devo dire che nelle ultime due settimane c'è stato un incremento abbastanza notevole, siamo sempre passati dal 4,4% al 7%, quindi siamo sempre in un livello molto, molto minore di quello che immaginavamo. Ed è derivato dal fatto che i voucher per i diciottenni e i voucher per gli insegnanti si possono prendere solo attraverso l'identità digitale. Vero. Cioè c'è stato uno switch off. Ce ne siamo occupati ai conti della Belva apprezzando molto. E quindi nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni da quando abbiamo pubblicato la ricerca, sa che è andata in stampa 10 giorni fa, siamo passati da 460 a poco meno di 700.000. Quindi siamo un pochino cresciuti. Il problema lì però non decolleremo mai finché non avremo l'identità digitale, non sarà un servizio anche utilizzato dai privati. Le dico subito, io ho in tasca circa 22 PIN, più o meno ho fatto il conto, 22-23 PIN, penso che per PIN, le carte, la carta, eccetera. Nel 95% dei casi non mi servono per parlare con la pubblica amministrazione, mi servono proprio con la banca, con l'assicurazione, con TripAdvisor, con le ferrovie, con l'Italia, certo. Eccetera, eccetera, eccetera. E questa è una vita di un normale cittadino, insomma, io viaggio forse un pochino più della normalità dei cittadini, ma più o meno. All'anagrafe ho fatto il conto che negli ultimi 3 anni ci sono andato 2 volte, e quindi è molto utile uno SPID che mi aiuti a non andare all'anagrafe, ma sarebbe estremamente utile, sarei anche disposto a pagarlo un po', uno SPID che mi aiutasse a mettere ordine nella mia identità digitale, dandomi un servizio di identità digitale garantito che possa essere utilizzato anche dai privati. Su questo c'è stato secondo me un po' di sottovalutazione anche dal punto di vista della strategia dello SPID, per cui abbiamo molto, la pubblica amministrazione tende a essere un po' autoreferenziale, quindi è molto immaginato di parlare dei propri servizi, e come ho visto c'è riuscito anche abbastanza poco, perché un servizio per comune su 3.000 amministrazioni attive non sono manco tutti i comuni italiani, non è che stiamo parlando di 4.000 servizi in tutto, quindi siamo ancora lontani da una copertura. Comunque ha guardato soprattutto i propri servizi e non ha guardato alla vita delle persone, e questo è un tema fondamentale. Finché non arriva alla vita delle persone, qui non si connette davvero l'importanza allo strumento, e quindi il ritardo è su questo. Questa prima risposta è molto chiara. Un minuto adesso, informazione sul traffico, e poi torniamo. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta col presidente del Forum Pubblica Amministrazione, Carlo Mocchi Sismondi. Stiamo pescando solo alcuni dei tantissimi dati che ci sono di aggiornamento su condizione della PA, attuazione della riforma Madia e dei suoi decreti delegati. Abbiamo visto perché siamo in ritardo sullo SPID, però il ritardo sull'anagrafe digitale è veramente clamorosa, sia pur rispetto... Anche perché l'unico comune che lei ha citato giustamente è Bagnacavallo, cioè stiamo parlando di un comune grande lode a Bagnacavallo, però mi sembra che, se non mi sbaglio, sono 15-17 mila abitanti. Insomma, cioè, e qui il problema qual è, secondo voi? Secondo me qui il problema è speculare a quell'altro. Come nel primo caso non si è ascoltata la vita dei cittadini, nel secondo non si è ascoltato che ci fanno i comuni con le loro anagrafi. Cioè il dato di una persona, di Carlo Mocchi Sismondi, di Oscar Giannino, viene messo nelle anagrafe del comune, corrisponde a un record, diciamo così, quindi a una riga di un grande foglio elettronico. Questa riga ha tantissime colonne, ciascuna di queste colonne viene usata dal comune per fare tante cose, tante attività diverse. Mettere in condizione il comune di non avere la proprietà del dato è possibile solo se lasciamo al comune la possibilità di continuare a usare questi dati, cosa che in teoria è stata fatta, ma non si sono ascoltati tutti quelli che nel comune avevano le migliaia di software diversi che facevano le anagrafi comunali. Allora si sarebbe dovuto portare più facilmente, forse prima, una standardizzazione, diciamo, di cosa ci doveva essere dentro le anagrafi. Poi una ontologia, cioè ontologia vuol dire che se Carlo Mo, se c'è scritto nome e cognome, per nome e cognome devo intendere sempre la stessa cosa, se c'è scritto indirizzo devo intendere sempre che c'è il via, il nome della via, il numero, o non c'è il numero e allora avrò un altro campo che avrà il suo numero, insomma creare una standardizzazione in maniera di ciascuno dei nostri record, in maniera che una volta che si arrivi a un'anagrafe unica, questa sia un'anagrafe che possa servire sia al paese intero, ma continui a servire al singolo comune. Sì, adesso il singolo comune rischia di vedersi espropriato dei dati. La singola software house che ha fatto applicato a questo problema tecnologico, in realtà sì, è lo stesso problema che è irrisolto da 20 anni. Non guardare, sì, abbastanza. Io tendo, il guaio grosso è che queste non falliscono questo genere di forme totalmente bottom up, totalmente top down, cioè fallisce quando dobbiamo arrivare, c'è un'autorità superiore che ci dice cosa deve succedere. Esattamente. Dobbiamo lavorare con un moto circolare che sia sia dall'alto al basso che ci indichi dove, sia dal basso all'alto, cioè dal territorio fino al centro, che ci indichi come, da una parte il dove, dall'altra il come. Se facciamo solo una di queste due parti, o guardiamo solo il particolare, funziona, o guardiamo non solo il centrale, non funziona. Stiamo vedendo che non funziona. Allora, io mi limito poi a ricordare che c'è anche il dato sulla banda larga e ultralarga. Siamo indietro perché con la popolazione a 100 mega siamo oggi all'11% di copertura. 50% entro il 2020 non appare alla portata come obiettivo, tanto per essere chiari. Quanto poi, e questa è la ultralarga, per quella larga, cioè 30 mega, siamo a poco più di un terzo oggi di copertura della popolazione. Dobbiamo arrivare al 100%. Vediamo, i prossimi 2 anni dovrebbero raddoppiare questo 70%, ma non credo al 100% neanche qua, a dirvi la verità, ma questa è un'opinione mia. Meglio stiamo andando invece nell'implementazione sia dei pagamenti digitali per le fatture alla pubblica amministrazione. Ci sono oggi più di 55.000 uffici di fatturazione elettronica pubblica registrati, quindi il sistema sta andando avanti e dall'inizio dell'anno prossimo la fatturazione digitale della PA apre ai privati, quindi ci sarà un ulteriore sviluppo, un po' più indietro ma comunque con significativi e apprezzabili segni di miglioramento. Poi il servizio, il pagamento digitale della pubblica amministrazione, dei servizi che offre la pubblica amministrazione, anche qua abbiamo 14.400 amministrazioni che si sono dotati, sono in piattaforma per così dire, quindi sono più o meno un po' più del 60% degli enti censiti della pubblica amministrazione. Ma io devo chiederle, Mochi Sismondi, di darci la sua interpretazione del dato da cui io sono partito, cioè quel divario di retribuzione media annua lorda tra pubblico e privato che non ha paragoni negli altri paesi europei e che persiste malgrado il blocco dei rinnovi contrattuali e degli scatti in questi anni. Ma a che si deve in realtà una forbice che è tanto significativa? Lo vedo subito dalla reazione degli ascoltatori, che in realtà rigradica la convinzione che la pubblica amministrazione è fatta dei privilegiati. Allora, diciamo che c'è stato dal 2000 al 2005 abbiamo avuto un incremento del 7% della retribuzione nel pubblico contro un 2,8% di incremento del privato. Quindi abbiamo avuto una corsa importante del pubblico dal 2000 al 2005. Dal 2005 al 2010 più o meno la dinamica delle retribuzioni è più o meno stata quasi pari tra pubblico e privato, stiamo parlando qui di incrementi e quindi non di valori assoluti. Dal 2010 quella del pubblico è ferma, quindi in qualche modo questa forbice, una dei due lati delle due lame della forbice si è fermata, quindi la divaricazione anche sarebbe stata molto maggiore se l'avessimo vista a fine 2005 probabilmente, o fine 2010 probabilmente meglio. Adesso si sta fermando. Deriva da una serie di ragioni che lei ha indicato abbastanza precisamente già prima. Una prima, certamente la pubblica amministrazione italiana è fatta di meno persone della pubblica amministrazione sia inglese che francese, quindi notevolmente di meno, il che vuol dire non perché sono di meno devo guadagnare di più, ma che abbiamo una media di, diciamo, la pubblica amministrazione italiana è mediamente formata di persone che hanno dei titoli di studio e quindi maggiori di quella dell'amministrazione inglese e di quella dell'amministrazione francese, che hanno anche dei livelli di eccellenza straordinari anche, quindi no, il corpo dei dirigenti della pubblica amministrazione inglese e francese è probabilmente migliore e più qualificato della nostra, però la media, considerando che lì sono 5 milioni e noi sono 3 milioni... Per capirci, ci sono dei divari interni, però resta troppo elevato. La sigla ci dice, coimè, il tempo di poter estrarre solo alcuni dei tantissimi dati di questo report che avete fatto sulla riforma della PA sta scadendo. Quindi io intanto vi ringrazio, Carlo Mocchio Sismondi, e dico ai nostri ascoltatori che purtroppo l'agenzia hanno battuto una dichiarazione del padre della scomparsa italiana 31enne di Sulmona, e il padre di Fabrizio, Di Lorenzo, Gaetano, che dice: noi abbiamo capito stanotte che per nostra figlia è finita, non ci illudiamo, e da quanto mi dice mio figlio a Berlino è quasi certo che sia morta. Purtroppo speriamo di no, ma queste sono le parole del padre. Continuate su Radio 24, appuntamento con me, Alessandro Milano, domani mattina alle 8:20, attenti noi due.